Madonna, per un pompino quanto casino. Ma in questo paese non si può più neanche scopare, figurati tu, ma è una cosa. Un paese va a puttane e noi non possiamo scopare. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Veramente vi voglio bene, ma detto questo, Parenzo mica tanto ultimamente, ma lei che Cruciani l'ammiro perché io mi ricordo sono stato uno dei primi a dire che lei è un grandissimo gourmet della gnocca. Mentre l'Europa attende il verdetto sulla Grecia, mentre le cancellerie di tutto il mondo sono concentrate per capire cosa avverrà nei prossimi giorni tra Atene e l'Europa, dentro la sede del Parlamento europeo c'era un parlamentare del nostro paese, caro Parenzo, in particolare un parlamentare della Lega Nord, il quale srotolava una carta igienica di fronte ai vertici dell'Europa dicendo che la carta igienica è più importante dell'euro. Indovina come si chiama questo deputato europeo, caro Parenzo? Guarda, temo si chiami Good Ass. Buon ah, hai rispolverato il good ass. È più importante la carta igienica dell'euro. Come al solito, Parenzo, non si sente un cazzo. Ci sono due carte, questa è quella dell'euro e questa è la carta igienica. Secondo me oggi in Europa è più importante questo di questo con il vostro lavoro, perché voi fate andare l'Europa al macero, non state facendo quello che interessa al popolo, e quindi lei sarebbe il primo che si dovrebbe dimettersi e chiedere scusa alla Grecia. E lo show continua, si parla anche di nazismo economico. Perché ci fu già uno che voleva prendersi l'Europa con il nazismo. Non vogliamo adesso il nazismo economico. E quindi, secondo me, bisogna cambiare un po' registro. E poi chiede a Juncker, il presidente della Commissione europea, se sa quanto costa un litro di latte o di benzina. Lo show di Buonanno mentre l'Europa crolla. Allora io vorrei fargli delle domande a Juncker. La prima... Ma lei sa quanto costa un litro di latte, un chilo di pane, un litro di benzina? Perché lei parla sempre di grandi cose, di grandi soldi, è in mezzo alle banche, alle multinazionali, vive con loro da sempre? Ma la gente, il popolo, ha d'altro a che fare. Parenzo, non dici nulla? Il manco Juncker secondo me non sa neanche chi è Buonanno, cioè proprio non ha la più pallida idea, guarda. Non ho capito, se tu ti dovessi mettere nelle mani di qualcuno, ti metteresti nelle mani del signor Juncker o del signor Buonanno? Tu sbagli a farmi queste domande però, perché la risposta è sin troppo scontata, ma come... Ma non lo so però, non lo so. Ma stai scherzando? Allora, il signor Lutwak ieri sera alla Zanzara dice che i vigili di Palermo, siccome ha attraversato Palermo in macchina, con l'autista, i vigili di Palermo sono invisibili. Sono stato a Palermo per venire a Favignana, sono passato a Palermo, sono andato in automobile da Bagheria al centro di Palermo, sono andato dal centro di Palermo all'aeroporto, c'erano ingorghi stradali e non ho visto un solo vigile, non ho visto un vigile. I vigili saranno invisibili, i vigili di Palermo, però devono essere pagati in euro invisibili. E poi ragazzi, sulla Grecia, adesso sentiremo una serie di persone, a partire dallo stesso Lutwak, che dice che i greci devono lavorare di più e puliscano i cessi al posto degli immigrati. Pieno di disoccupati e pieno di extracomunitari che lavorano. L'Italia fa la mediazione fra questi cattivi tedeschi e i poveri greci e farsi compassione e dargli la minestra. La vera compassione è di non dargli la minestra, così esce e va a pulire i gabinetti nel posto dove oggi c'è un marocchino. non dare più soldi alla Grecia, così cominciano a fare i lavori che oggi fanno gli extracomunitari, cioè pulire i cessi. Forchielli questa mattina da Milan, spettacolare, greci cialtroni assoluti. All'opinione pubblica dei greci è un'impressione pazzesca. Cioè che pensano? Sono dei cialtroni assoluti, secondo la ragione per cui non i greci, i greci come popolo, no dai, i greci come governo. Sì, sì, una roba. Greci cialtroni assoluti. È un gattino la Grecia attaccato ai maroni. Non ne usciamo più, la Grecia è un gattino attaccato ai maroni. Diamogli da mangiare, diamogli un po' di benzina, capito? Evitiamo la catastrofe umanitaria, condoniamogli gran parte del debito perché sia morta lì, capito? Ragazzi, in tutto questo non è che potete offendervi se secondo me la cosa più divertente l'ha detta ieri sera qui da noi la signorina Valentina Nappi, pornostar, editorialista addirittura di una rivista, Micromega, una rivista molto amata dalla sinistra. La signorina Nappi ha detto su quella ipotesi, su quel diario di un'altra signorina che si chiama Iris Berardi, trattasi di Olgettina, termine che sembra scomparso ma in realtà esiste ancora perché esistono ancora processi in corso. Insomma, la signora Iris Berardi, come tutti voi sapete, che cosa ha detto? Ha detto che l'avrebbe messo in quel posto a Berlusconi un oggetto, forse un dildo, e lui insomma diceva fai piano, fai piano. Questo è riportato nel diario della signora Iris Berardi, non è che lo dico io, cioè non sono cose che escono fuori dalla zanzara. La battuta più bella l'ha fatta la signora Nappi e ve la faccio sentire anche alle 18.41, perché questo è uno spazio libero dove si può parlare di tutto a qualsiasi ora. Tra tante cazzate che ha fatto, almeno quella di farsi inculare l'ha colta, almeno si è fatto inculare, che cazzo, uno è giusto nel fatto. Però anche come dire, il più preparato, il più serioso Forchielli che avete sentito prima sulla storia di Berlusconi e il di dietro di Berlusconi non è che ci è andato leggero, sentitelo il Forchiellone. Quella storia lì dell'oggettina veramente la vita poi ti riserva le sorprese. Cioè, sembrava che un gran culo glielo facessero sinistra e magistratura, invece il culo peggiore glielo faceva Iris Berardi, una roba da pazzi. Beh, non è male questa, Parenzo, non è malissimo. Non è male questa qua, l'avevo già letta. Se uno poi va a vedersi la biografia del grande professore, no? Sì, sì. Non è una porno star, non è un attore, no? Porno, anzi. No, ma questo l'ho già detto io però, Sì, appunto. Allora, intanto in Puglia che succede? Succede che Emiliano... In Puglia sono io in Puglia. Sì, sì, dove sei tu in Puglia, ma lasciamo perdere. Sono venuto apposta per questa visita di Emiliano. Sì, certo, il governatore della Puglia, Emiliano, incredibilmente nomina a loro insaputa tre grilline assessori. Cioè, deve fare la giunta, prima fa una specie di reality assurdo facendo scegliere, che lui chiama sagra, facendo scegliere ai iscritti alcuni assessori, sì. Cosa ridicola, altamente ridicola, scegli degli assessori e non rompere le balle. Poi sceglie, ma loro non vogliono, tre grilline, non so se siano donne o uomini, adesso c'è questa moda di fare tutti assessori donne, no? Anche De Luca fa 6 assessori su 8 donne. Ora, dimmi te se è possibile una cosa di questo tipo, o sono tutti competenti, oppure è impossibile che improvvisamente una giunta di 8 persone siano 6 donne e solo 2 uomini. Ma tanto ha cosa... ottenuto tutte le deleghe più importanti per sé. Ma per sì, cui... ma al di là di questo, ma è chiaramente ma no, solo... è fondamentale. Ma è una cosa di facciata, però, la nomina delle donne è una roba di facciata, non perché non siano competenti, ma chiaramente 6 donne su 8 è solo perché vuoi comunicare, ho fatto una giunta senza le deleghe principali, come dici tu, ma finta. Emiliano dice nomina 3 dei 5 stelle, ma scusa, ma vuoi chiedere prima se questi qua vogliono entrare in maggioranza? Altrimenti è solamente tattica politica, è solamente una cosa, comunque Grillo gli dà del satanà. Sa, Grillo tra l'altro ha detto che bisogna uscire subito dall'euro, E abbiamo anche selezionato da questo punto di vista 3 consigliere che pare non abbiano, diciamo, reagito benissimo, addirittura hanno parlato di un atto di violenza, ma è lontanissima dalla mia idea questa ipotesi. Ma credo sia una battuta, Satanasso significa, diciamo, sei un diavolo tentatore, ma non è assolutamente questo. Allora abbiamo con noi Giampiero Mughini. Giampiero, buonasera. Buonasera. Eccoci ragazzi, in che compagnia, non voi dico, ma le puttanate che avete elencato. L'elenco sconfinato e impudico di puttanate reali e verbali che ammorbano il nostro tempo, mamma mia. Vabbè, però Giampiero, ti sai che noi mamma ci sguazziamo. Mamma mia, Giuseppe. Ci sguazziamo dentro. Mia. Ci sguazziamo dentro, come dire. No, voi ci sguazzate il vostro mestiere, lo fate anche con la dovuta. Ma insomma, ragazzi, ma tutte le cose che avete citato. Vabbè, ma che devo dire? Poi sai, Grillo è uno dei personaggi preferiti della mia personale saga dell'orrore. Lui che va lì a lucrare l'esito del referendum e a sproloquiare sull'uscita dell'euro, eccetera. Lui che di economia si intende per quanti soldi neri ha preso nella sua fulgida carriera. Questo è da pagliacci o no? Ma dice anche che bisogna tornare alla lira, eh? Alla lira. Tenendo presente questo, nel tornare alla lira, questo naturalmente stiamo parlando della terza elementare, non so se Grillo ha superato quello scoglio, con la lira nello spazio di 10 minuti la nostra, l'inflazione, che per adesso non c'è, questo è un difetto, va al 10-15-20%, quindi le pensioni di 800 euro al mese nello spazio di 6 mesi valgono 400 euro. D'accordo, poi con la lira tu devi comprare molte cose che sono in euro. No, ma al di là di questo, queste uscite. È questa però. Sì, no, per carità, poi si va nel merito. Molti pensano addirittura come Salvini che si possa invece uscire tranquillamente senza. Ma Salvini non è che lo pensa, lo declama nei comizi, sono due cose diverse. Cioè, lo declama, ma in realtà non ci. È un'attività del cervello. Ah, tu dici è un'attività del cervello, non è un ghigno facciale a uso delle telecamere, non è la stessa cosa. Cioè chi dice bisogna uscire dall'euro lo dice solamente per declamare. No, io dico che Salvini dice uscire dall'euro, lo dice con una mossa da artista, da interprete, da cabarettista, perché sa che questo gli porta dei voti, i voti di quelli che si illudono, i quali domani mattina uscendo dall'euro le loro condizioni di vita, di sopravvivenza miglioreranno, capisci? Per cui sono perché due truffatori. Torneremo alla liretta degli anni 90, di quando il nostro debito pubblico cresceva di 20 punti percentuali l'anno. Ma dunque sono due truffatori entrambi, Grillo e Salvini, due truffatori matricolati. Io direi che questo termine che stai usando tu e non io lo condivido appieno. Traffico. Le strade in diretta saranno anche utili. C'è il traffico. Mamma mia, no, il traffico. Ma sono una boiata pazzesca. Traffico, no. Fate qualcosa, vi prego. La Zanzara. Guarda che c'è gente strana in giro. Eccoci, siamo con Giampiero Mughini, con Davide Parenzo in collegamento dalla Puglia. Io voglio sapere una cosa da Giampiero, ma anche tu pensi che i greci alla fine siano dei cialtroni assoluti? Cioè non ti rode il culo che una parte dei tuoi soldi possa essere ancora prelevata per finanziare i greci? Perché questo vogliono i signori di Atene. Naturalmente nella sostanza dei fatti, e lasciando stare appunto i paroliberi che si emozionano dell'orgoglio dei greci, di questo si tratta. I greci da molti anni vivono al di sopra delle loro possibilità e io naturalmente non faccio lo spiritoso nei confronti di questa tragedia. Si tratta di una tragedia che loro in parte si sono costruiti, ma certo vivono al di sopra delle loro possibilità e l'orribile Europa, l'Europa usuraia, l'Europa tedesca li ha riempiti di denari per sopravvivere, per pagare gli stipendi, per pagare le pensioni, per permettere alla gente che va al bancomat di ritirare qualcosa. Al momento attuale si tratta di dar loro ancora altri soldi. Io naturalmente però di questo si tratta, ma soldi bada bene che non sono come recitano i paroliberisti delle banche sono soldi appunto nostri, esatto. Sono i nostri risparmi che sono depositati nelle banche. Io sarei furibondo, infatti io sono furibondo se si danno altri soldi ai greci. Secondo me non bisogna dare nessun euro ai greci, basta. Ma no, Giuseppe, ma tu ami prendere le posizioni drastiche, però, so che la realtà è più complessa, so che la realtà è più ma ha ragione Giampiero, ma è chiaro che anche a me, come dici tu, mi rode il culo sapere che i miei soldi vanno a persone che ancora non hanno fatto riforme, però siamo in un mondo tutto collegato, cioè è fondamentale in questo momento che dice ma vadano a morire ammazzati, ma non funziona così. Di quel saltimbanco che è andato in Grecia lì, che ha ragione, come si chiama, si chiama quello lì? Grillo. Sì, non ho capito. Come tutta si chiama quello? Grillo, lo sai, David, non fare lo stupido. Io voglio capire, tu tra la Merkel, Giampiero, tra la Merkel e Grillo preferiresti essere governato? Non te lo dico nemmeno. La discussione non sorge, se non mi consenti. La discussione onestamente non sorge. La Merkel non è quella che viene descritta nei titoli reboanti di giornali demagogici o populisti. Non è la culona. No, io raccomando a chi voglia appunto usare il cervello, che è uno degli organi di cui dispone l'uomo e che lo differenzia dall'ippopotamo, la lettura di un libro sulla Germania, di uno che la Germania la conosce bene, un compagno della mia gioventù, un amico della mia gioventù, Angelo Bolaffi, che racconta una Germania che non è esattamente Tu vorresti essere governato dalla Merkel invece? Ma io voglio essere governato naturalmente da un gruppo italiano. Però se ci fosse la Merkel metterebbe le cose. Però dovendo scegliere, messo con l'acqua alla gola, diceva quello tra un diavolo giallo e un diavolo blu. No, non è un diavolo giallo e un diavolo blu. Una è una persona che ha una storia, che fa parte. Guarda, c'è un libro meraviglioso. No, ma lasciamo perdonami. Che libro è uscito? No, è un libro che è uscito adesso, siccome è un libro che non credo avrà molti lettori, per questo mi raccomando, e lo ha scritto una scrittrice che adesso non c'è più, una scrittrice giornalista americana, Rebecca West. Lei era stata nella Germania dell'immediato dopoguerra, che non era come la Grecia, cento volte peggio, cioè, una nazione distrutta, d'accordo? Va nella stessa Germania dopo 4 anni. E la nazione è risorta. Cioè tu dici i greci, i tedeschi, con il loro lavoro, con la loro ostinazione, capisci? Tedeschi hanno le palle, i greci non hanno preso. Vada bene, qualcuno ricorda che l'Europa in quegli anni concesse alla Germania una riduzione del debito. Amputò il debito tedesco, che era il debito di guerra, che era anche una punizione della guerra persa, lo amputò, ma quello nello spazio di pochi anni valse quella amputazione, perché girò il denaro in tutta Europa e fu un miracolo economico, te lo ricordi? Vai fino in fondo, Giampiero, vai fino in fondo, i tedeschi hanno le palle, i greci no, dai, i greci vogliono essere sussidiati. Io dico che i greci di questi ultimi anni non mi pare che abbiano affrontato la loro situazione, meno che mai con quest'ultimo governo che tu ricorderai risulta da un connubio tra estrema sinistra ed estrema destra, cosa che va detto, no? Allora? Per dire che la demagogia non ha più frontiere. I greci per adesso continuano a chiedere soldi. Allora, Giampiero, no, assolutamente. Hai letto quelle intercettazioni dell'Olgettina per passare veramente da Rebecca West alle Olgettina su Berlusconi? No, naturalmente. E ti vorrei fare un'osservazione a questo proposito. Io penso che il processo cosiddetto Rubiter sia un processo molto serio, perché riguarda una cosa che non sono la falsa testimonianza, certo, personali. È il falso in atto pubblico. Assolutamente, sì. Quindi è un però detto questo, io non amo che i giornali siano zeppi di però succede, in cui si parla di inculate. Le inculate sono una cosa privata, capisci? Sì, d'accordo, però l'idea che Berlusconi se lo sia fatto mettere dietro dalla signora Berardi. Ma non c'è nulla di male, è un gesto erotico, se mi consenti. Ecco, questo volevo sapere. Molto, è un gesto molto. Anche tu, anche tu l'hai praticato. Sai, io non ho la grande, diciamo, il grande esercizio berlusconiano della materia. Nel mio piccolo, qualcosa del genere, per fortuna, è avvenuto. Oh, viva Dio! Parenzo piccolo. Dice che è una follia. Dai, ragazzi, ci sentiamo dopo il genere. Parenzo non sa quello di cui sta parlando. Esatto. Parenzo non sa quello di cui sta parlando. Giornale radio. Piccolo idiota, davanti a me in ginocchio. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Radio 24 e il sole 24 ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. Il segnale orario vi offerto da... Gran Moravia e burro delle Alpi di Brazzale. Fidati di chi conosci da 200 anni. La Zanzara. Parenzo, abbiamo oggi, credo, raggiunto uno dei record assoluti. Assoluti, sono le 19:20, dunque sono trascorsi, credo, intorno ai 25 minuti. 25 minuti dall'ultima parola pronunciata qui alla Zanzara dal sottoscritto, da Teo, da Mughini, non me lo ricordo, che era il nostro primo ospite. 25 minuti, credo che sia un record assoluto di qualsiasi trasmissione radiofonica del globo terracqueo, del globo terracqueo. Tra GR, borsa e pubblicità qui non si parla mai, questa trasmissione è massacrata. Questa era la voce degli ascoltatori, ma chi se ne frega, andiamo tutti a fare in culo e via. Vabbè, allora 800 24 00 24, richiamatemi un attimo Mughini, c'è o no? Ah, per chiudere quel discorso, dici? Beh sì, certo, per chiudere quel discorso, sì. Giusto per dirvi che il Colorado sta diventando uno stato formidabile, uno stato formidabile. Dopo aver legalizzato la droga leggera, la marijuana e affini, ha sperimentato gli anticoncezionali gratis distribuiti. Io non sono a favore della distribuzione gratis. Ah no, questo è civiltà però, No, ma non sono per l'anticoncezionale statale. Cioè penso che l'anticoncezionale debba essere pagato. Ma comunque lasciamo perdere, non mi piacciono le cose statali. Beh, magari che lo dai uno, diciamo, non profumato, colorato, uno basic, no? Oppure uno non stimolante. Beh, quello o sì, certo, quello credo che sia così. No, cioè, appunto dico, non lo dai, diciamo, accessoriato. Ma no, però, quello che credo proprio di no. No, però dare un profilattico basic, diciamo, cioè, quello. Da sei anni questo risulta. Il Colorado ha scelto la strada di distribuire gratis anticoncezionali a teenager, soprattutto a donne povere. Civili. Ed è diminuita, per la gioia del signor Adinolfi, del 42%, ha portato a un crollo del 42% degli aborti tra gli adolescenti. Beh, per forza. 42% degli aborti tra gli adolescenti. Un grandissimo stato sta diventando, legalizzazione della droga leggera, distribuzione gratis di anticoncezionali, crollo della natalità, no, crollo della natalità non è mai positivo, no. Crollano gli aborti tra gli adolescenti, cioè dire, prima c'era gente che abortiva, dunque faceva morire, usando la terminologia di Adinolfi, delle persone, no, comunque. Beh, persone, adesso però dai. No, sopprime, no, figurate come la penso io, però comunque è sempre una cosa traumatica, non è meglio. Beh, prendere certo. Il preservativo piuttosto che abortire, mi sembra evidente da questa cosa che succede in Colorado, no? Sono crollati gli aborti tra gli adolescenti perché lo Stato ha distribuito gratis i preservativi nelle scuole tra teenager, donne povere che non se lo possono permettere. Mi pare una cosa di grandissima civiltà. No, ma ti posso anche dire che è anche interessante dal punto di vista, sì, culturale, perché in realtà il mettere il preservativo, sì, o farsi mettere, non il metterselo, sì, da soli, sì, è un gesto brutto, meccanico. No, perché? Ma che vuol dire metterselo da soli? Scusami, no, non sto entrando nel merito, come piace a te. Cioè, stavo ragionando su questo mentre parlavo. Sì, in realtà bisognerebbe andare oltre, cioè il farselo mettere il preservativo crea crea anche quella straordinaria intimità di coppia. Cioè, tu preferisci fartelo mettere, dici? Beh, ma questo rispetto a mentre l'altra pratica. No, ma è brutto, devo dire la verità, è brutta come cosa. Pratica che evocavi all'inizio di questa diretta radiofonica, l'altra pratica, quella di berlusconiana memoria, diciamo, ah, no? Quella della signora Berardi, diciamo. Ecco, mentre quell'altra pratica non ne sono, diciamo così, un estimatore. Ma perché non sei un estimatore? Perché non l'hai mai provata? Come fai a saperlo? No, scusa. Io chiedo scusa. Non l'hai mai provata? L'idea, quel posto lì è stato fatto, creato da Nostro Signore, da là, da chi vuoi tu, con una funzione, secondo me. Ecco, ma che vuol dire, scusa, con una funzione? Ma tu sei veramente, lo sai chi lo dice questo qua? È una frase utilizzata da tutti quelli che dicono che tutti quelli... No, ma sì, esattamente, da Scilipoti a tutti quelli che dicono che la pratica, come dire, sodomitica, sia una roba. Io parlo sul mio corpo, quello degli altri va benissimo. Per me, io credo che nel mio caso è stato fatto per quello. Nel mio, per quello degli altri, nel tuo invece è stato fatto per diversi usi, nel tuo. No, non so. Ma no, ma non è vero. Allora, no, ragazzi, ma non so se il tuo, Giampiero, non è un generico. Giampiero, vienimi in soccorso per ma favore su questa ma cosa. Ma vengo in soccorso necessarissimo, perché mi pare che Davide non capisca esattamente le cose. Quando ci riferivamo alla pratica erotica evocata dalla Berardi, che avrebbe utilizzato, fatto una domanda, eccetera, ci riferivamo a qualcosa che niente ha a che vedere con la sodomia. Esatto. Si tratta di una cosa fatta da una donna all'uomo per sperimentare forme ulteriori e assolutamente piacevolissime di piacere. Stiamo confondendo. Poi quell'altra pratica erotica è una cosa che riguarda naturalmente, però non solo loro, ma gli omosessuali. Ma qui stiamo parlando di un piacere ulteriore che una donna, ad esempio, provoca a un uomo. Ma non è il caso così, di andare più là. Per voi è così, da me no pasaran. Ma che vuol dire Davide? No pasaran? Non sai che ti perdi, ma appunto, cioè, ma che significa no pasaran? Scusami, però l'ha descritto. No, molto, molto meglio da me di me. No podemos. Vabbè, d'accordo, abbiamo capito. Mughini, con la sua consueta classe, ha descritto in maniera aulica, in maniera, come dire, assolutamente non volgare, perché non c'è nulla di volgare in queste cose qui. Ha descritto una cosa molto semplice, che è la stessa cosa che probabilmente, secondo il diario che ha scritto, tutto da verificare naturalmente, noi non è che c'è, figuriamoci e se che cosa, ripeto, privatissima, che è assolutamente sconcio che diventi materia di, diciamo, come posso, evocazione giudiziaria, perché Berlusconi, se venisse processato per il Rubiter, certo non viene processato per questo, viene processato perché ha pagato delle falsificazioni processuali. Quello è il processo, assolutamente, però all'interno del processo, come sai, vanno a finire pure i diari di queste ragazze, eccetera eccetera. Poi uno può dire dovrebbero essere scoperchiati, rivelati solamente quando c'è un'udienza e non prima, e siamo tutti d'accordo. Io però penso di sì, perché sennò il processo diventa un'altra cosa, però, diventa un baccano mass mediatico. Però è evidente che queste cose escono, sono sempre uscite, finché non si dà una regolata attraverso la legge usciranno sempre. Vabbè, d'accordo, diciamo però poi alla fine... Perdonami Giuseppe, cosa diversa sono sempre uscite, eccetera. Cosa diversa è che adesso è divenuto un business mass mediatico e mass mediaticamente orientato, e naturalmente dove vengono scelti alcuni bersagli e dove ci sono cronache giudiziarie e televisive che non finiscono mai. E beh, questa è un'altra questione. Comunque, questa è un'altra questione, e io penso che questo sia un avvelenamento della sensibilità però civile. Posso dire una cosa, Parenzo? Parenzo, veramente ripeto, con Mughini non sai che ti perdi, perché dal semplice dito fino a qualcosa in più, caro Parenzo, una pratica che è fatta dall'uomo, dalla donna all'uomo, benissimo, per aumentare, ripeto, non vorrei ripetere le stesse parole del maestro. Ma va benissimo, io vi posso capire, vi voglio bene. Ma così, ma prova, ti assicuro. prova, potete prova. Introdurre, potete prova. Farvi introdurre dalle adesso vostre... che hai una compagna anche giovane, prova, è tutta la vita per sperimentare. No, ma io ti dico tieni questo. Compagna potete, giovane, prova. Potete farvi introdurre nei vostri. Ma non è, ma stai sbagliando. E io vabbè, sarò vabbè. Con voi se volete anche a vedere mentre fate questo. Però no, no, vedere non ci interessa, vedere che tu veda non ci interessa. Nulla, perché sono liberale, liberista, radicale, libertario. Beh, insomma, liberale tutto dico la nella mia situazione. No, passerà. No, passerà. E vabbè, peggio per te. Giampiero, peggio per lui, che dobbiamo dirlo. Ma sai, c'è gente che non ama la pittura impressionista, che non ama l'astrattismo, c'è gente che non legge libri, c'è gente che non ama il jazz. No, no, ha ragione Giampiero, non è diverso, è la stessa cosa, la pittura impressionista è un atto sessuale, è un bel libro, è la stessa cosa, come te lo devo dire, vado oltre Mughini in questo caso. Non vorrei essere brutale, no, ma è la stessa cosa. Guardare le ninfe di Monet e farsi mettere, diciamo, no, no, una bottiglia, no, ti sbagli, ti sbagli, è la stessa cosa, ha lo stesso secondo valore, è arte, è sempre è arte. Diverso, comunque voglio chiudere con Giampiero in questo modo. Sono incazzatissimi i grillini per quello che hai detto prima su Grillo, so che te ne fotti di quello che no, pensano i grillini. Ma mi dispiace perché io, guarda, non amo mai, diciamo, offendere le persone. Detto tutti i colori su Grillo. Io penso che lui che si fa la passeggiata lì ad Atene all'ombra del risultato referendario e sproloquia sull'uscita dall'euro è una pagliacciata, sì. No, ma hai detto anche delle cose in nero, dei soldi in nero, hai detto anche dei soldi in nero sono cose che sono uscite più volte sui giornali, che vengono testimoniate da agenti dello spettacolo più volte sui giornali, nome, cognome, eventi. Io credo di averlo sentito dire per la prima volta, non so, 20 anni fa, nel momento più fulgido della sua carriera, ma certamente lui non è stato l'unico, per carità. Cioè, prendeva soldi nero nel mondo dello spettacolo, è risaputo. Era che lui prende... nel mondo dello spettacolo, ma del giornalismo, la gente adesso non ricorda i grandi nomi che vennero coinvolti. Era un tempo in cui il pagamento in nero era molto normale. Più facile. Va bene, devo e siccome chiudere. Che te ne dicano, tutti amano i denari, hai capito? Sì. Che ne dicano, capisci? Che ne dicano, i denari non puzzano, no, e allora il pagamento in nero era ben gradito. Ma io non vado oltre questa affermazione, anzi, come tu sai, sempre l'offesa alle persone io rifuggo. Rifugo, però questa cosa insomma è veramente. Va bene, di Giampiero, ciao. Semipubblico. Pubblicità. David, ti dispiacerebbe andare a fare in culo? La Zanzara. Ma Cruciani, ma questa è follia, ma qua siamo alla follia più totale e tutti stanno zitti, ma stiamo scherzando. Allora ragazzi, iniziamo subito la battaglia, 800 24 00 24, andiamo, Danilo da Fermo, Marche, vai. Ciao, buonasera. Dimmi. Volevo dire a Parenzo, lì vicino a te. Sì, che vai, secondo vai. Me Parenzo non è che ci si mette il dietino dietro, ci si mette proprio un bel fallo questo io. Ma perché? Non ho capito, ma se dici che perché no... mi sembra un po' tutto quello che dici lui sembra la parte dei deboli, la parte dei miserabili, aiuta tutti, secondo ma me che vuol dire se... Che se, no, che guardi, vuol dire? Qual è il collegamento? Qual è il collegamento tra prenderlo dietro, te secondo lei, e stare dalla parte dei miserabili? Questo come simpatico, dice... questo simpatico signore marchigiano, sì, signore marchigiano, che stavo per definire idiota, e quindi chiedo scusa. Ma non è sempre un idiota. L'avevi definito volentieri idiota, ma vabbè, voglio però, cambiare tanto. Sei un disco rotto, però. Sì, no, ma non è un idiota. Ma è molto di Parezzo, no? Parezzo. Sì, è molto di più che l'idiota. Cioè, lui c'è la famiglia, è sposato? Lui è sposato, sì, si è sposato. È sposato? Sì. Ah, penso un po' che noia la signora che sta con lui. Farà l'amore come... le classiche posizioni, non c'è un po' di fantasia, niente, una noia sarà. Ma che ne sai tu? Beh, è allucinante, se non ti fa fare il massaggino prostatico, che cos'è? Non lo so. Sì, io capisco che questo simpatico signore si fa fare il massaggino prostatico dalla moglie, dalla compagna, da chi vuole lui, sì, dall'amichetto sì. probabilmente, ma da chi vuole lui non è un problema. Dall'amichetto io. No, adesso dai, no. Io non ho nessun problema, lui può fare, come ti ripeto, allora? Quello che vuole, può anche introdurre qualunque cosa, sai. Io però? Non... però? No, non c'è però. Però la cosa che mi dà fastidio è il legame che lui fa tra chi difende quelli che lui sì. chiama gli ultimi, eccetera, e la supposta omosessualità. Questo è il punto che lui. Vabbè, Danilo, concludiamo questo tuo preziosissimo intervento da fermo, vai. Sì. Questo, che per esempio secondo me lo prende dietro, dice sempre no, ma come no, io non ci sto con lui, penso che prenderà certi falli da 28, 30, oh poi piano, altro che Berlusconi. Va bene, che Giuseppe, provincia di Oristano, vai, ciao, Giuseppe, provincia di Oristano, ciao, Sardegna, vai. Dimmi. Cruciani? Pronto? Sì, dimmi. Ciao, buonasera. Niente, no, volevo dire che mi cade un mito, magari, se continui a dire magari del massaggino e vi dicendo così via, perché un conto è magari scazzare un pochino, un conto è proprio fare come magari state dicendo voi in questi momenti qua, no? Per dire. Cioè, in che senso? Non ho capito bene. Cade un mito? Quale mito? Scusami. Nel senso, per esempio, che la donna, magari, per aumentare la virilità, o com'è che state dicendo, magari, ci sono quelle che usano mettere il dito nel culo, magari, come state dicendo, no? Sì, allora? Giusto. E allora, magari, per esempio, la donna va presa, va trombata, va accontentata, va fatta questo correre, che c'entra? Ma questo no, che c'entra? Ma magari così, perché poi magari... Però scusa, no, io vorrei far tornare tutto alla normalità. Noi siamo partiti da un diario scritto dalla signora Iris Berardi Olgettina, alla quale sostiene in questo diario di averlo messo in quel posto a Berlusconi però, dietro. Amico mio, questo è di avere preso un oggetto, la signora Iris Berardi Olgettina, di avere fatto godere in questo modo Berlusconi, con Berlusconi che diceva fai piano. Questa è la cosa, è un diario. No, ovviamente Berlusconi ha querelato il fatto per avere pubblicato questo diario, eccetera, eccetera. Però il fatto per adesso non è stato smentito né dalla signora Iris Berardi, magari può dire anche che è stata romanzata la cosa. Scusa, io poi ho detto che qualche volta ho provato anch'io con una donna, ma è normale questa roba qui, assolutamente è normale. Secondo me, chi non ha provato, come Parenzo, a essere, come dire, in qualche modo infastidito per arrivare al culmine del piacere da una donna in questo modo, non ha provato bene tutti i piaceri del sesso, caro Giuseppe. Dunque, quale mito cade? Non ho capito. Vuol dire che magari un pochettino mi cade un mito, magari un ma po' mito di che cosa? Ma mito, non c'è nessun mito del Cruciani, del donnaiolo e così ma via. Ma che c'entra questo? È esattamente il contrario. Cioè, è esattamente il contrario. Volendo è il contrario, ma non c'è nessun mito da alimentare. No, infatti, perché magari tanto sono così le donne, poi quando vogliono un po' di più, magari aumentano o così via. Però va ma io non so di che va... pare, aumentano un po' di più. Che cosa aumentano? Aumentano, ti chiedono sempre un po' di più o così via, e tu bisogna la donna, bisogna accontentarla, bisogna sbatterla per vabbè, ma adesso sì, ma questo è d'accordo, quello non... soltanto ricordare sommessamente 19:40 dalla Puglia, per carità. E questa qui rimane sempre comunque la radio del Sole 24 ore, per quanto, come dire, no? Anche queste ultime telefonate nel dettaglio cercano di entrare di scalfire questi ma gli comuni. Ascoltatori qui possono intervenire su tutto. Andiamo a Bergamo da Filippo, vai. Buonasera Parenzo e Cruciani. Dimmi. Niente, io volevo fare un intervento su l'ospite che avete avuto, il buon Mughini, vai. Mughini, ecco. Niente, volevo consigliargli di parlare di calcio e di arbitri. Perché uno non può esprimere un parere, Grecia, no? Perché non può esprimere un parere sulla Grecia, sull'euro, sì, eccetera, vabbè, non ho capito. Puoi esprimerlo, però secondo me devi dare delle nozioni. Tu lo puoi esprimere? Io mi piaceva chiederle a Mughini se lui ha una casa, affitta una casa e l'affittuario non le paga l'affitto, come si comporta? Non deve dire che ha vissuto con troppi benefit? Non ho capito, cioè se non paga l'affitto, ma è la stessa cosa che uno può dire della Grecia allora? Lì è appunto, cioè parlare così della Grecia mettendo il popolo in quel modo, secondo me è un discorso veramente fuori da ogni logica. Vabbè, Filippo, ho capito, ciao. Scontri televisivi, Librandi contro Salvini. Drive us La Lega è l'unica che ha votato contro la legge Fornero. No, no, l'unica. La Lega è quella che neanche vota contro i vitalizi, lo sai, quella è la Lega. Ti do gli emendamenti di scelta. Fatti portare una limonata. Ma no, fatela portare te, perché tu. Allora, andiamo a sentire anche gli altri. Scusate. Agli italiani, sei un gran ballista, capisci? Un ballista professionista. Va bene. E gli italiani se ne andiamo un attimo a Romano di Lombardia. Ma c'è ancora la Fornero. Allora parliamo di Bossi, parliamo dei diamanti, della Tanzania. Ma che cazzo dici agli italiani? Dille cose una vere. Una limonata al signore che è agitato. Sì, andiamo, non ce l'abbiamo le limonate, noi soffriamo solo spazio per la discussione. A un certo punto tutta la folla riunita da Del Debbio si accanisce contro Librandi, che, ripeto, è un deputato della cosiddetta sciolta civica, ex scelta civica, no, in realtà è un mio modo di dire sciolta civica perché in realtà non esiste quasi più, Librandi, imprenditore di Saronno. Ascolti, signor Librandi, gli italiani non sono cretini né deficienti e hanno la testa per ragionare. Certo. Staccati la sedia dal sedere, che non sei neanche stato votato. Brava! Grande! Ma sei proprio brava! Ruspe a Librandi, ruspe! Bravissima, bravi! Come siete ruspe. Bravi! Fuori! Che bravi! Ruspe! Tutti. Ancora la folla contro Librandi, che a un certo punto si incazza pure con Del Debbio, dice: ma come? Io sono venuto qua e mi hai radunato la folla contro di me. No, scusa, ferma tutto. Oh. Guarda che bella piazza di gente intelligente. Aspetti. Allora, Buffone, ascoltatemi bene lì a Romano, se no non si va d'accordo. Buffone lo gridate. Posso replicare, scusi? No, stia fermo. Posso replicare, mi lasci parlare? No, se non mi lascia parlare mi dicono Buffone. Ah, poi sto dicendo quello. Mi difende lei. Farmi dire buffone da una piazza di persone che sono state messe lì apposta per dire certe cose è un onore per me, capito? No, un onore vero. No, però Librandi, io ho detto che non voglio, l'ho difesa. No, quindi... lei è proprio bravo che mi fa insultare in diretta e poi è proprio bravo a scegliere le persone da mettere lì. Perché non facciamo una piazza di persone intelligenti e vediamo se mi insultano? È una piazza di persone leghiste... No. Questi due disgraziati pidocchiosi non solo si divertono, ma li pagano pure per divertirsi. La Zanzara. Beh, accanto a me, qui in studio a Roma, caro Parenzo, grande ritorno alla Zanzara. Fra poco ci darà una grandissima esclusiva la settimana prossima. Calma. Antonio Razzi, buonasera. Buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio 24. Questo sta in Puglia, Anto. Parenzo, già sta in vacanza. Si fa i cazzi così. Ma tu no, fai... non è una vacanza, sono venuto con tutta la famiglia qui in Puglia in un club. Vabbè, è in vacanza. Vedi che lavoro significa tutto il giorno. Vedi che significa quando uno te la grana. No, ma è l'unica settimana che faccio tutto l'anno, perché poi lavoro anche ad agosto. Sì, ma io ti vedo sempre in vacanza. Una volta sta a Parigi, una volta sta a Dublino, una volta a Londra. Parigi era per lavoro. Parigi sì, è vero, sono stato a Euro Disney con mia figlia due giorni. Ma poi questa è l'unica settimana di vacanza. Sono in un normalissimo club Robinson. Ma è normalissimo, eh. Poi un'altra volta l'ho trovato lì che stava al melograno a mangiare sagno e fagioli, capito? Allora, pure là va in vacanza. Ah, cosa pazzesca. No, senti, Antonio, ma hai letto questa cosa delle oggettine che metterebbero la signora Iris Berardi, che metterebbe il dildo nel sedere del Berlusca? Io questo non credo. Tu dici che non è vero, non è? Questo non credo. Lo puoi escludere, dici? Io lo escludo, che non credo. No, che forse sia... scusami, Razzi, su questo ragione bisognerebbe chiederlo al dildo a sto punto. No, al dildo, il dildo è difficile interrogarlo. Sai cos'è il dildo, tu? E che vuol dire? No, il dildo, sai che cos'è un dildo? No. Un dildo, sai, non sai che cos'è. Io vengo dalla campagna, insomma, queste cose qua. Non lo so. Il dildo, non sai che cos'è un dildo. Che? No, ma Antonio, una bistecca? No, ma che bistecca? Il dildo è la traduzione. No, leggigli la frase, altrimenti non capisce. Scusa, spiegagli. No, bene. Ma allora, no, ma il dildo è quello, lui, è quello che avrebbe messo in questo caso. Insomma, capito, Iris Berardi. Ho capito. Lui, però com'è però che si questo dice? Io non credo. Non credi che non Berlusconi. Credo, e poi. Che avrebbe detto anche fai piano la signora Berardi. No, allora, assolutamente io questo. Falsità. Non ci credo, manco se l'avessi detto. Lei, onorevole, tecnicamente. tecnicamente, cioè, se dovesse fare una lezione, cioè, Razzi spiega che cos'è il, cioè, me lo spieghi proprio con parole sue. Ma il dito lo sa che cos'è, ma, sai, ma queste sono parole che io non posso e non uso dire. Io sono un uomo di mondo, ma non arrivo fino a lì. Ma non, perché non hai mai usati? No, io sempre andato al naturale. Sempre al naturale, sì, mai anche naturale. Lui è normale, ma... vedi? C'è Parenze che hai visto Parenze, no, Viagra, no, cose, ma io no, io non lo conosco nemmeno. Io su questo la penso come no, te. No, la pensa come te invece. Che ti siede vicino che fa uso di quella roba. No, io ho detto io, perché tu i giochi non li hai mai usati qualche volta? Mai. No, mai usati i giochi. Mai, io palline. Niente palline, ma che palline, per giocare a biliardino, no, sì. Le palline, le vibratori, cose già mai, no, usati. No, mai usate. Con una donna mai usati. Ma sei indietro, ma, sei antico. Io sono antico. Sei all'antica, al naturale. Io ho una moglie seria. Io sono solo serio anche a fare. Ma che sei, a fare le cose? Non è che fare. Usare. Io non sono andato. Ma con usare le, dei giocattolini. Non sono andato con nessun altro. Ma da quando sei sposato, d'accordo? Non sei andato con nessuno. Prima lo sappiamo, ormai è leggenda quella, ma roba. Ma quello lì. Sì, quello di prima. Allora, però allora non c'era quella tecnica moderna di oggi. Cioè, non c'erano i. Ma allora non c'erano assolutamente. Ma chi lo conosceva? I vibratori non c'erano, no, dici? Assolutamente, negli anni 60 dove andava a trovare un vibratore? Magari poteva pigliare la corrente a qualche parte, ma non nel vibratore. Però io dico una cosa, Anto, però non puoi non avere mai usato, come per esempio il preservativo. Tu non hai mai usato un preservativo, no, in vita tua? E che ce lo devo fare? No, ma come, che devi fare? Quando sei andato con tante donne ti potevi beccare qualche malattia. Ma, allora sì, qualche malattia l'hai beccata, no, qualche cosa. No, mai. Mai, uno scolino. No, ho avuto fortuna, devo dire che hai avuto culo con tutte le donne che c'è avuto. Bisogna avere fortuna nella vita. Passavi da una all'altra. Va bene, era pericoloso. Hai avuto culo. Però ho avuto fortuna che quelli là che sono andati io erano tutti bene lavate, stirate e cucite. Belle stirate, belle stirate, capito Parenzo? Sì, sì. Ha avuto culo, senatore, capito? C'è Parenzo. Cioè, cucite, lavate, stirate, ho capito, sì, lui. No, ma lui, che ne so, sembra... è una persona, da questo punto di vista, si capisce, molto, molto tradizionale, lo ha detto, ma lo si capisce anche vedendolo in faccia, mentre uno se vede in faccia a te... capisce subito, diciamo, gli aiuti che prende, ma non chimici, ma no, ma io non ho mai preso un aiuto chimico, assolutamente. No, ho detto a parte gli aiuti, non ho detto non chimici, ma se uno ti vede in faccia dice beh, questo sicuramente è un maiale. Se uno vede, scusa, ma Parenzo, se vede in faccia a me, lo so, ma come fa a pigliare gli aiuti chimici adesso che è giovane? Allora quando arriva all'età mia, che devo fare? A 67 anni, che fa? Una farmacia interna. Se deve pigliare tutte le farmacie di Roma che l'aiuta. Scusami, abbi pazienza. Lui non li prende adesso, non li prende adesso. Io mai preso, non lo conosco nemmeno. Beh, non sai manco che colore è Viagra. No, me l'hanno detto che è azzurro, ma io non ho mai visto blu, la famosa pillola blu, azzurro. Però diciamo la verità, detto, fare l'amore senza il preservativo è meglio, non c'è niente da fare. Ma è normale, tutto un altro gusto. Cioè, tu ai giovani bisogna consigliare questa cosa. Ma sicuramente, se vuole veramente assaporare il gusto del, il gusto, diciamo, è come il gusto dell'arrosticino, dei sani e fagioli, devi mangiare al naturale. Cioè non è che li puoi mangiare col cappuccio. È chiaro. Cioè se vuoi fare sesso sul serio lo devi fare senza preservativo. È chiaro, quello, perché sennò che fa la gomma? La gomma, lo so, però allora però... tanto vale che mi viene una ruota della macchina, cioè, lo fai con la ruota di una macchina. Sì, il paragone è un po' così, però sai, c'è l'AIDS, ci sono un sacco di problemi, la gente che rimane incinta. Sì, ma ho capito, caro. Però dice ormai non c'è più l'AIDS, ormai no, è finito. No, a parte che non c'è più, però devi, non c'è più, c'è, devi vedere con chi donna vai. È chiaro che se vai con una donna di strada, ho capito, ma non ci devi andare perché è pericolosissimo. La donna di strada con le prostitute bisogna andare col preservativo, almeno questo si può questo sicuro. Perché sennò altrimenti. Allora, perché, ma tu dici che l'AIDS le case chiuse, perché lì almeno ma c'è. Ma come va? Controllo. Non va avanti sto disegno di legge. No, non se dovrebbe essere calendarizzato appena dopo le vacanze la commissione giustizia. Ho capito, però Antonio, la commissione sanità. Non almeno, mai. No, almeno c'è questa cosa, perché prima adesso almeno il governo ha tenuto a fare delle cose molto più, diciamo, più urgenti. Invece questa è una cosa urgente perché entra i soldi. Oh, insieme da questo punto di vista sei battaglia insieme a Salvini. Dobbiamo ricordare gli ascoltatori qui che quando Salvini, Parenzo, era ancora il leader della Lega, ma non era così conosciuto, fu portato in Corea e chissà che gli hanno fatto la benedizione in Corea, forse. Che è successo? Da quel momento in poi, da settembre, ricordiamolo, del 2014, è esploso il fenomeno Salvini, che si può dire essere stato quasi creato durante questo viaggio. Non so cosa è successo dal senatore Razzi. Posso dire che il viaggio lì in Corea gli ha portato fortuna. Perché io quando l'ho presentato al presidente, dice, che cazzo io sei? No, io ho detto, presidente, questo è il leader, del segretario della Lega Nord. E questi? Dice, e ha l'8% di... E lui mi ha detto, dice, ma no, ma c'era il 4, 4 e mezzo. Abbondiamo, non si sa mai, no? E invece... Cioè, gli hai detto la cazzata dei coreani? Sì, ho detto... Così, gli hai detto? Ho detto 8%. Oh, guarda, manca far caso, dopo di qualche settimana l'aveva pure superato. Si vede che l'area della Corea del Nord, visto che è Nord, ha portato... Corea del Nord, Nord, Lega Nord, Lega Nord ha portato, allora bene, ha portato fortuna. Però io devo dire una cosa, Parenzo, è importante questa cosa qui. Ultimamente pare che sto cazzo di Kim ammazza un sacco di gente, su tutte balle, pure questa qua dell'aeroporto. Ma sì, dice, ma... che l'architetto dell'aeroporto, lui si è arrabbiato perché non gli è piaciuto l'aeroporto. Ma guarda, guarda, io ti posso dire, dimmi, che prima della costruzione lui lo vede già il progetto. Lo vede già, per cui dici, non è possibile. Perciò questa è pure una cazzata. Ma no, però ti dico Antonio, scusami, in un paese normale tu vedi un progetto, non ti piace, scusi, me lo rifà. Lì viene dato in pasto ai cani, il rischio c'è, capito? Ma no, ma non è vero. Il progetto non mi piace, che succede? Davide, là te lo dico io, non ci stanno un cane. Se lo vuoi pagare oro, non lo trovi un cane. Come mai non ci stanno sti cani in Corea? Scusa Antonio, ma com'è possibile? Ma si vede che se lo tengono segreti in casa. Ma come mai non c'è stanno i cani in Corea? Io ancora non ho capito. Comunque tu escludi che questo architetto dell'aeroporto, no, di Pyongyang... Assolutamente, io a ottobre... Ma com'è questo aeroporto? Bellissimo, bellissimo. Io l'ho visto adesso che sono stato, appunto, però non è ancora la prima. Cioè, meglio di quelli italiani? Ah, non c'è dubbio. No, è piccolino, non è cosa, però fatto molto bene, con stile molto moderno. Ma veramente tu non credi a questa cosa di Berlusconi? Che Berlusconi sia stato... Ma guarda che è positivo farselo mettere... Guarda, cioè, tu dici impossibile. No, è impossibile. Cioè, Berlusconi è troppo macio, dici. No, Berlusconi è una persona seria. Ma che c'entra? Non è che uno che se lo fa mettere un dito dietro, non è serio. Assolutamente, guarda, tutte balle. Guarda, come le stesse balle che dicono dalla Corea, che quella ha ammazzato col cannone, quella... Col cane. Ma che cavolo, ma mai possibile che queste balle, ma chi lo invente queste balle? Allora, magari sono le balle di Fieni, balle di... Fermi tutti, pubblicità, torniamo subito, Antonio Razzi è con noi qui in studio, 800 24 00 24. Questo non credo. La Zanzara. Ve lo dico a voi due d'amico, fatevi i cazzi vostri. Quello che io faccio, vai Anto, vai. Non ho mai pentito. Sono stato eletto senatore. Anche perché di fame si muore. C'è poca voce. C'è poca voce, sì. Vabbè, questo per dirvi, ragazzi, che siamo qui in diretta con Antonio a Roma, senatore di Forza Italia, nonché cantante, provetto, eccetera eccetera. E stiamo preparando, anzi sta preparando, stiamo, una parola grossa, una versione specialissima di questa canzone che è stata ascoltata. Anche tu? Non sapevo che tu facessi il mogol. No, non sono io, il mogol è un'altra che si chiama Paolo questa Palma. Questa è la no. vera notizia, è questa. No, stiamo, è stato un lapsus. Scrivi i testi delle canzoni di Razzi. No, è un lapsus. No, ti assicuro che non metto mano a nessun testo. Ma no, ma non mi vergognerei per niente, non mi vergognerei assolutamente. No, ma te lo sto dicendo senza ironia. Mentre farsi ficcare quelle cose, secondo me, è meno nobile, ma per carità, de gustibus, questa tua modestia in questo caso... Mi sembra mal riposta, perché in realtà bello questo che fai, No, ma assolutamente. Vabbè, allora diciamo no, così, come vuoi ma tu. Non ti vergognare. Ma non mi vergogno per niente, ma ti dico che non mi vergogno, ma non mi vergognerei. Di dire che ti ficchi quelle cose, ma quando fai una cosa non mi vergogno di nessuna delle due cose, né ogni tanto di farmi mettere un dito nel sedere da qualche fidanzata o anche qualche oggetto, mi è successo e chi se ne frega, ho goduto come un pazzo, né seconda cosa. Ma poi lo tiri fuori, cioè arrivare ma sì, ma certo, ma ragazzi, ma di che state parlando? Dai, su. Ma questo per dirvi che è veramente quasi pronto una versione specialissima estiva di questa canzone, giusto Antonio? Sì. È una cosa incredibile. Scritta? No, non l'avete scritta. È la stessa canzone. È la stessa canzone, solo fatto un po' più. Lasciamo perdere. Ma la cosa incredibile è che ha ricevuto un invito, sai per andare dove? Dove, Parenzo? Tu non ci potrai credere. A Ibiza, in una delle più grandi discoteche di Ibiza. Sì, caro. Perciò, ma io mo stavo dicendo, ma lì si già fino alle 5 la mattina, 6 la mattina. Io sono abituato ad andare alle 11 la sera a dormire. E vabbè, allora devi... per una volta devo fare il giovanotto come Parenzo. Ti devi sacrificare. E magari mi sacrifico. Sì, è meglio così in italiano, è meglio. Ma che cazzo te frega? Ma italiano. Sì, ma se dico... no, ma io tanto che Parenzo ci parla in dialetto abruzzese, così questo mi capisce di più. Cucendo, quando vi pescare te cambiano la lingua abruzzese, là. Ti insegno la lingua abruzzese. Dunque, a Ibiza invitato da una discoteca, sì, una discoteca così, a passare tutta la notte lì a presentare questa versione nuova. Vabbè, e fai il testimonial di questa discoteca per una notte, una delle più grandi discoteche di Ibiza, capito? Razzi a Ibiza, fa pure rima, Razzi a Ibiza. Beh, e tanto io parlo spagnolo, lì mi trovo a casa mia. Ah, è vero, pure questo è vero, se parla spagnolo. Quelle sono... Almeno lì te capiscono, però, questo si può lì, dire. Lì mi capisci in sicuro. Italia, forse, in Italia ogni tanto... Forse Parenzo ne mi capisce. Capisce, però lì quelle mi capiscono. Capito, ma tu te lo saresti mai aspettato? Cioè, pure a Ibiza, in discoteca a Ibiza, dai. No, su. Io penso che la Spagna ultimamente stia affrontando un periodo di grande crisi, infatti. Però sì, non mi sarei mai aspettato arrivassero a tanto. Ecco, senti, sei contento per quello che è successo in Grecia, caro? Mi sembra di sì, no? Per quella la cosa che ha preso la culona, per lo schiaffo che ha preso la culona. A una parte, a una parte sì, perché... Anche tu la chiami la culona, sì. Beh, io Frau Merkel la chiamo, signora Merkel. Però non ce l'ha piccolo. Però, alla parte gli sta bene, perché a essere comandati da tutti, dall'Unione Europea. Le grandi analisi. Dalla Germania e dalla Francia, questo non va bene. E devono dettare le leggi loro. Ma noi chi siamo? Noi siamo stati la quinta potenza mondiale. Il presidente Berlusconi gli ha detto alla Merkel: tu, sì, cara amica, qui l'Italia lo comando io e qui non rompere le cose. Quella però. Bene, dopo, ecco, per quello io chiederei una commissione d'inchiesta ancora, a vedere sul modo in cui è caduto Berlusconi. Perché è caduto Berlusconi? È stato colpa della culona. Lì c'è stato un complotto della culona. Un complotto internazionale con la culona, che è d'accordo anche con alcuni italiani, e questo l'hanno fatto dimettere. Scusa, se ci fosse stato Berlusconi, la crisi greca sarebbe risolta. Ma sicuramente. Dai. Ma perché è un genio? Ma come tutti i geni. Scusa. Ma insomma. No, dai, però non puoi dire che avrebbe risolto. Avrebbe pagato di tasca sua. Cioè, avrebbe messo i soldi e i prestiti della Grecia, poteva metterlo lui direttamente. Questo non credo. Non arriva, non credo. A tutti. Però risolveva i problemi, perché come tutti i geni tirerà il coniglio dal cappello risolve i problemi. Sì, tirerà, scusami. Ma tirerà qualcosa dal cilindro. Tirerà fuori il cilindro dal coniglio. Com'è che si chiama il ministro quello che si è dimesso dalla Grecia, là, quello dell'economia, come si chiama? Varoufakis. Vedi, però. Beh, sì, ma ormai l'altro, il primo ministro. Sì, ma anche quello dico, vai in giro con una moto che costa 50-60 mila euro. Questo non ha torto, però. Ma come che a partire tu filo ministro proprio di soldi, che te la dite per comprare sta moto? Con la gente per strada, no? Insomma, che non gente che va a tirare 50 euro, 60 euro, 120 in euro in banca, che non lo può tirare. E tu vai con la moto. E tu vai con un motore di quello. Mannaggia la vacca. Anch'io ho notato quella cosa lì, però su questo Razzi non ha tutti i torti. Cioè, quello è andato via con sto casco, con una moto costosissima, pure tedesca, no, ma scusami, forse. Lui ha detto, ha sempre è stato immortalato con questa Harley Davidson, molto bella che lui ha, no? Questa moto dell'Harley Davidson. Beh, ho capito, però sai, non è... Parenzo se ne può comprare 3-4. No, Parenzo se ne può... quello è un professore che ha insegnato in Australia. Ha fatto girato il mondo facendo conferenze. Vabbè, ho capito, però che non è bello. Cazzo sappiamo noi di che proprietà? Magari ha soltanto quella moto e quel piccolo attico che guarda. Guarda, Davide, io se ero io almeno andavo in giro con una Vespetta. Ecco, ma la gente sta morendo di fame, no? Che non può tirare i soldi, e quelli vengono un motore del genere. Una ma moto magari del c'è solo quella moto lì, no? Scusami, però, se uno scusami, vede uno dice: mamma mia, questo chissà quante cose c'ha, e invece c'hai solo una casa. Berlusconi avrebbe risolto tutto, tu dici? Tranquillamente. Berlusconi avrebbe risolto tutte le questioni greche, che è un po' intricata. Ma se era premier italiano, sicuramente. Come se fosse stato premier. Ma io dico, io posso dare un'idea. Io posso dare un'idea ai 28 paesi. Addirittura, pure ai 28 paesi. Ai 28 paesi d'Europa. Qual è l'idea? Sentiamo. L'idea è quello di proporre a Berlusconi il numero uno della, della mediazione mondiale. No, aspetta, come mondiale o europea? È diversa. No, mediare la questione greca. No, a parte con la Grecia, ma anche con la Russia, con l'America, con tutti i paesi del mondo. E chi lo dovrebbe nominare? Mediatore? Dovrebbero fare un accordo tra i premier europei. Ma c'ha tanti problemi l'Europa. Adesso se imbarca Berlusconi con Iris Berardi che glielo mette nel culo. Quello sicuramente risolverebbe tutti i problemi. Ho capito, ma tu capisci che l'Europa adesso escono le intercettazioni di Berlusconi che se lo fa mettere nel sedere la nominano mediatore di tutti i problemi del mondo. Ma chi se lo fa mettere? Ma guarda che bello, è buono farselo mettere dietro. No, ma sicuramente no. Guarda che devi provare. Di a tua moglie, no, per carità, santa donna, a tua moglie no. Non lo posso nominare, no. Ogni tanto però un ditino. No, assolutamente. Guarda, almeno il dito, prova. Veniamo purtroppo, da una famiglia tradizionale. Sì, forse... Magari, senti, ma qual è la più figa del Parlamento? Eh? La più figa del Parlamento? È proprio quella più figa, dice tutti i volte. Una ce ne sarà. Ma sì, ce n'è. Ma dimmi qual è la più figa, no, tutte racchie, se lo dici. Sono tutte carine. Sì. No, ma dimmi, sono tutte racchie tremende. Tutte carine. No, ma non fare così questi gesti così. No, ma tutte carine, al Senato ci sono tutte carine. Dai, ma la più figa chi è in Parlamento? Ma ci sono tutti quanti. È difficile la scelta. Ma una, la più bella di tutti, dice. Ma guarda, sono tutte belle. Sono tutte belle le donne del mondo. Questo. Comunque, nelle foto pubblicate da alcuni giornali i giorni scorsi ho visto un Razzi particolarmente ingrassato, devo dire la verità. T'hanno preso male con sta pancia. Quanti chili hai preso? Ho preso 3 chili, ma guarda un po' che mi viene tutta la pancia. Tutta la pancia. Adesso sto al mare facendo un po' di... Tu fai 200 grammi di pasta già a pranzo, 200 grammi a cena, ma che cazzo, non vuoi ingrassare, non te muovi. Ma io sono amante della pasta, se no vai in crisi pure le fabbriche della pasta. Cioè? Vabbè. Sono un grande consumatore della pasta. Vabbè, comunque, la cosa fondamentale è che andrai a Ibiza fra poco. Adesso sto cercando di convincere ad andare a Ibiza. Sperando che quei 2-3 giorni riesco a, diciamo, cala di qualcosa in discoteca. Di calare 3-4 kg. Sì, solo se. Dio provvede. Antonio Razzi, grazie, a presto. Grazie a tutti. Ciao, buona serata a tutti da Radio 24. Buon ascolto, la Zanzara. Ciao. Fammi cantare, tira campa e fammi sognare. Chiedo solo un rimborso spese per arrivare alla fine del mese. Fammi cantare. Datemi la pubblicità. Quello che io faccio non ho mai pentito. Guardate che vengo lì di pigliarti in culo. La Zanzara. Come siete pazzeschi. Giuseppe, sai che sono innamorato di te? Pretty soon now. Ti sei innamorato? Allora ragazzi, molti ci hanno scritto su questa moto di Varoufakis. Io non sapevo assolutamente che moto fosse, l'avevo notata, una Yamaha che costa all'incirca 10.000 euro, che non è poco per una moto, per carità, ma nessuno vuole ministri poveri, come dire, nessuno vuole ministri pauperisti, ministri che non si comprano niente. Anche a me ha fatto un po' impressione perché era una moto di grossa cilindrata, ma insomma costa 10. Se è vero che è una Yamaha che costa 10.000 euro, va benissimo, anche se ne costasse 50, sti cazzi. Sergio da Verona, vai, 800 24 00 24, vai. Pronto? Pronto? Sergio, vai, dimmi. Io devi ancora lì. Ci vede proprio che i magistrati lì per via dei Berlusconi ne hanno fatto il più colore. Ce l'hanno proprio sul, come si dice, a petto quelli lì che hanno perso la causa. Perché stanno inventando adesso un'altra causa, Rubiter. Ma non è che se la sono inventata, scusami, in questo caso l'ha detto prima Mughini, che certamente non è un anti-berlusconiano di complemento, se la sono inventata, tutto nasce dal fatto che forse Berlusconi e i suoi avvocati eccetera eccetera, ma soprattutto Berlusconi ha pagato dei testimoni del suo processo, è tutto da verificare naturalmente, siamo ancora... C'è una cosa, allora, se queste donne qua sono state pagate, la prima cosa è da fare è questa, Allora, prima di tutto c'è anche la... hanno preso dei soldi senza pagare le tasse. La finanza dovrebbe dire: voi avete scopato per 10 anni, 5 anni, avete preso 10.000 a testo, adesso pagate le tasse, altrimenti andate in galera. Prima di tutto. La cosa è, siccome non siamo un paese normale, purtroppo, la sinistra non è un paese normale, purtroppo è questa qua, dovremmo cucarsi, perché ci siamo qua. Seconda cosa è da dire questa: se queste donne qua hanno mentito la prima volta, chi mi dice che non mentono anche la seconda, perché non danno più soldi, hanno trovato la manna d'oro, sai com'è? La cosa sicura è che hanno trovato i conti correnti bancari, i trasferimenti di denaro, su questo non c'è alcun dubbio, ci sia stato passaggio di denaro, non c'è dubbio. Poi l'interpretazione di Berlusconi è che si sia trattato di una sorta di regalia perché queste ragazze erano bisognose, eccetera, eccetera. Ma anche se fosse così, e ho il sospetto che Berlusconi sia un po' incastrato in questa vicenda, anche se fosse così, è comunque un reato pagare un testimone di un tuo processo, versare dei soldi. Poi non so come finirà e fondamentalmente vedere se è stata pagata perché per tacere, ma soprattutto tu hai ricevuto dei soldi e anche tu sei concussa perché hai preso dei soldi che tu non dovevi. Anche loro sono indagate, anche loro sono sotto processo. Allora, se tu per la prima volta hai detto sei stata falsa, chi mi dice se è stata falsa anche se è falsa anche la seconda volta? La cosa fondamentale è il passaggio di denaro, punto e basta. Ma scusi, io posso pagare le donne, posso pagare, uno io gli do i soldi e le dico che va bene, vuole 100.000 euro per scopare, va bene, io 100.000, dove sta il problema? È che a un certo punto queste qua sono diventate testimoni di un processo, non ci possono essere contatti, figuriamoci, dei passaggi di denaro fra queste due entità, diciamo, chiamiamole così. Massimo da Milano, Massimo. Pronto, buonasera. Vai. Vorrei fare un po' chiarezza, perché da ieri che sento parlare di questo rito e mi sembra il caso che a questo punto si parli seriamente di questo argomento. Cioè, di quale argomento si deve parlare seriamente? Del famoso dito nel sedere? Dito posteriore, eccetera, eccetera. Dunque, io personalmente ho un'attività sessuale, mi ritengo tale. No, Massimo, però la linea va e viene, fermi tutti, torniamo tra un attimo. Traffico veicolare. La Zanzara. Affossare la troica che logorroica la felicità. Ma chi è? È un'insalata greca e con tanta feta la felicità. Ma chi è? Felicità. Sì, sento dei disturbi in cuffia. Ma chi è? Ma chi è? Vendola da Atene, ma ancora non è tornato. Vendola? Sì. Buonasera. Sì, buonasera. Ma capisco che lei dopo aver fatto il governatore non c'è un cazzo da fare, è andato ad Atene ed è praticamente ubriaco per la vittoria di Tsipras. Non dica Tsipras. Perché? Non pronunci questo nome, perché c'è una reazione inconsulta. No, un'erezione forse, lei va sempre sul volgare, perché quando io sento Tsipras, lei dovrebbe saperlo, si rizza. E quindi avverto questa elettricità, questa cosa. No, Siriza. Siriza. Questa metafora l'ha fatta lei, io non c'entro niente. In realtà non si è trattato della vittoria della Grecia sull'Europa, ma è la vittoria della Grecia che serve a salvare l'Europa. L'Europa non si sfonda a destra. Sì, però non attacchi il pippone adesso. Non è un pippone, non si sfonda, si rifonda. Ma perché ha chiamato? Non ho capito. Perché mi piace arrecarle disturbo, Cruciani, perché ho sentito che lei si circonda sempre di politici dell'altra sponda e quindi volevo in qualche modo intervenire. Come dell'altra sponda? In che senso? Dell'altra parte politica, non mi faccia dire altro, Cruciani. Vabbè, comunque, ho capito, Bendola, adesso però lei non è più... Lei ha preso in giro Varoufakis, Zelensky invece è un giovanotto che ha fatto una cosa importantissima. Cioè? Varoufakis ha avuto la straordinaria generosità di fare un passo indietro per consentire al popolo greco di fare un passo avanti. Ma questa è l'esaltazione. Abbiamo già sentito ieri il TG3 che ha fatto un peana pazzesco a Varoufakis, una cosa vergognosa. Si tratta del Davide ellenico che vince sul Golia teutonico. Mendola, io capisco che lei io capisco che lei ormai non è più governatore della Puglia. Ma io non credo che lei capisca, Cruciani, perché sì, questo pure è vero. Vabbè, adesso la saluto. Ma adesso saluto perché saluto perché mi ha rotto i coglioni. Arrivederci, Mendola. Allora, io direi di andare in provincia di Milano da Massimo. Provincia di Milano, Massimo, vai. Ehi, Giuseppe, mi senti? Sì. Vai, dimmi. Sì, ascolta, tu sei un eterno sognatore, cazzo. Il motivo della telefonata non era questo, ma te sei fantastico. Tu quando parli con i tuoi ospiti pensi che siano persone normali. Ma cazzo, lo sa Razzi cos'è il bido? È un politico, un senatore, tu chiamagli la tassa, cavi la legge, con quello che la mettono al culo loro, capito? Secondo me il termine tecnico non ci arriva, e premesso che secondo me è una genialata averlo mandato in Corea. Questi non si sa mai, visto ovviamente mai. È andato da solo in Corea, ti voglio segnalare. Ma va benissimo, cazzo, ma visto mai, questi qua vogliono fare una guerra, vedono Razzi, dice ma siete già messi male, cosa vi dobbiamo fare? E se ci mandiamo buon anno, secondo me anche degli aiuti umanitari li mandano. Vabbè, comunque. Il motivo è questo, Cruciani, basta con questa fantomima che ti danno fastidio 25 minuti, che cazzo te ne frega a te, non te ne frega niente, a me danno fastidio, scusa, se ti danno fastidio, manda a fanculo la radio, o la radio manda a fanculo te, no, non vi ritrovate mai durante... Adesso, ma non è il caso di mettersi a discutere su quello che ho detto prima, no, sull'interruzione della zanzara, ma che cazzo te ne frega a te se mi dà fastidio? Ma tu lo dici ogni settimana, secondo me vi mettete in riunione a dire queste cose. Ma figurati, ma quale riunione? Cazzo, ci sto con fastidio minimo, così la gente si infervola, ti dà ragione. Ma tu c'hai ragione. Ma quando mai? Tu c'hai ragione, figurati, a noi non sentire 25 minuti di zanzara, minchia, è una droga. A noi andiamo in astinenza, però a te non dà fastidio, dai, lo sai. Come, che non mi dà soldi. Fastidio, non mi dà fastidio. Ma che ti frega te quei 25 ma guarda minuti, che tutto, guarda che messaggi, allora, Massimo, stai tranquillo, stai tranquillo. La cosa fondamentale è questa, che tutto quello che io dico qui è tutto vero, non c'è nulla di preparato e non c'è nulla di, come dire, di artefatto, ma... e soprattutto non c'è niente di creato ad arte per fare fastidio, casino. No? Mi viene naturale. Fastidio. Mi dà fastidio, basta, punto, l'ho detto, punto, basta. Ma se vai nel tuo capoccia e gli dici, ascolta, a me 25 minuti... Ma è una vita che lo dico, che ne sai tu? Ma è una... mi dai, ma perché non mi fai parlare un po' di più? Ma siccome non sai, ti perdono perché non sai. Alessandro da Grosseto. Buonasera, volevo replicare agli sproloqui di Mughini prima, quando parlava dell'euro, lire... debito pubblico. Ma innanzitutto, velocemente, negli anni 90, fino all'inizio degli anni 90, il debito pubblico era tutto all'interno, era una partita di giro tra lo Stato e le famiglie italiane. E non mi risulta che dall'avvento dell'euro il debito pubblico sia calato, anzi è praticamente raddoppiato. Poi non è venuto in mente che buttati una volta fuori a mare i greci, una mattina si alza un lettone, un lituano, un finlandese che dice ma perché dobbiamo cazzo pagare gli stipendi dei dipendenti pubblici italiani, delle pensioni degli italiani? E non è che poi ci ritroviamo fuori noi dall'euro, non per Grillo, Salvini. Alessandro, io al contrario di Parenzo sono molto fatalista, cioè non me ne può fregare di meno, cioè nemmeno di perdere tutti i risparmi in un quarto d'ora, vi posso assicurare, non me ne può fregare di meno. Sono molto fatalista in questa roba qua, e anzi penso che l'esperimento greco, se dovessero uscire dall'euro, sarebbe straordinario. E infatti una parte dell'Europa credo che abbia paura anche di questo, dell'establishment europeo, cioè che magari uscendo dall'euro in qualche anno la Grecia si mette in rotta e l'economia magari funziona meglio, che ne sappiamo, magari può succedere una cosa di questo tipo, non lo sappiamo. E una parte dell'Europa teme, lo ha detto un economista l'altro giorno, non mi ricordo chi, cioè che molti hanno paura nell'establishment europeo che magari quella che viene chiamata la Grexit, cioè l'uscita dalla Grecia dall'euro, porti un vantaggio alla Grecia, e allora sarebbero tutti terrorizzati, no? Attenzione. Su questo ci sono d'accordo. Senti, Cruciani, velocemente, un'altra cosa. Vabbè, Transeat sul discorso dei soldi in nero, perché Mughini pensasse a quelli non che non lo prendeva... so, magari lo querelerà Grillo. Certo, ha detto una cosa pesante Mugolo, eh? Sì, no, Mughini ha detto prende i soldi in nero, Grillo prende i soldi in nero, insomma adesso poi vedremo. Visto che prima avevate citato anche Forchielli, il mitico Forchielli che sento anche pontificare da Milan, domanda: ma Forchielli chi cazzo è? Che cazzo fa nella vita? Chi è un imprenditore? No, no, è uno che vive tra l'Italia e l'Asia. È uno che vive tra l'Italia e l'Asia. Fa la mediazione. No, ma ha ragione però Alessandro su questo. Che cazzo fa? Il famoso osservatorio Italia. Sì, sì, ma che cazzo fa per il nostro, per il paese? Va a firmare contratti. Chi paga il viaggio a Pechino, Hong Kong, Sumatra? Perché non vorrei che fosse lo stesso Forchielli. Sì. Quello lì che non ha mai fatto un cazzo in vita sua, che viveva all'ombra del parassitismo democristiano, che faceva parte del pensatoio dell'Arel, di Beniamino Andreatta. Vabbè, adesso ragazzi, non rispolveriamo nomi che sconosciuti alla maggior parte dei nostri ascoltatori. Il problema è molto semplice, molto semplice. Signor Forchielli, effettivamente uno si domanda che cazzo di mestiere fa? Non lo so, sicuramente fa qualcosa per campare. E a me tempo fa è arrivata una mail che un giorno vi svelerò sulla vita privata del signor Forchielli. In realtà privata, chiunque può andare su qualche sito. Beh, è straordinario, numero uno per me da questo punto di vista, numero uno. Davide da Monza, vai Davide. Dani. Vai, dimmi. Ciao, senti, ho telefonato prima perché mi sono un po' incazzato con te, perché tu continui questa storia del dildo con Berlusconi e basta, lascialo stare, perché ti sto Ma Davide, ma fatti i cazzi tuoi, scusa, ma che vuol dire? Che vuol dire lascialo stare? È uscito una cosa. Io devo farmi i cazzi miei, se mai tu devi farti i cazzi tuoi, ma sarà io mi faccio dei cazzi degli altri per definizione, perché altrimenti non farei un programma alla radio e non farei giornalista. Certo, d'accordissimo con te su questo, però allora, perché ragazzi, devi continuare? Io la trovo, sarà perché sono un po' malato, sarà perché sono un po' fissato, sarà perché l'unica cosa che secondo me interessa veramente le persone, al di là della questione della Grecia, che è una questione dibattutissima, tutti parlano la Grecia eccetera, e per fortuna noi non vi facciamo due coglioni così sulla Grecia, anzi ogni tanto ve li facciamo. Bravissimo, due con qualche ospite. Ma la mia domanda, l'unica cosa, una delle poche cose interessanti uscite fuori negli ultimi giorni, è questo diario di una delle oggettine che dice di aver messo un dildo nel culo del Berlusconi. Interessanti per vero te. Non vero, non lo so, per me è interessante, mi fa scompisciare delle risate, aumenta ancora di più la stima che ho nei confronti del signor Berlusconi, ma la grandissima, perché uno che si fa mettere un dildo dalla signora Iris Berardi nel culo dicendo pure fai piano è un numero uno incontrastato. Ancora. È un numero uno, c'è poco da fare, è così, ha provato anche questo, sempre se la cosa viene confermata. Per cui io non lo dico in senso negativo, che una persona sia d'accordo con te, perché magari uno tutti i giorni come me ascolta la Zanzara e continuerà ad ascoltarla, mi piace tantissimo tutto quello che vuoi. Vabbè, ma ragazzi, però adesso dopo due giorni ma che palle, è un altro discorso. Dopo due giorni sto discorso finirà e ne faremo un altro. Già ne hai fatti tre con oggi, ma è uscito fuori il tormentone, amico mio. Ma che dobbiamo fare? Dobbiamo viviamo anche di tormentoni noi, non è che viviamo di cose che cambiano continuamente. I tormentoni sono belli, altrimenti la radio è fatta anche di tormentone, non è che te lo devo dire io, dai Davide. Oh, però mi sono sentito io di difendere lo zio Berlusca. Dai, ma io l'ho difeso, ma sono il primo a essere a difenderlo da questo punto di vista, al di là della questione delle intercettazioni, escono, non devono uscire i diari, pubblicarli, non pubblicarli, le cose private eccetera. Uno, ripeto, che se lo fa mettere in quel posto un dildo dalla signora Iris Berardi, giovane ragazza oggettina, è il numero uno. Davide da Bari, vai Davide. Buonasera, sono David da Molfetta. David da Molfetta, vai, David da Molfetta, dimmi. Uno, volevo dire che se il dito del culo è legge, se io fossi un deputato la farei legge nella Costituzione. Tu sei un grande e devi proporre questa cosa. Ma legge, che non può essere legge. Come fai a fare una legge in cui è obbligatorio per una donna mettere un dito nel culo a un uomo? Scusa, abbi pazienza. Cruciani docet. E più volevo dire che a quel raddrizza banane di Parenzo lì a fianco a te, che vuol dire la drizza banane specifica? Sì, è dalle parti tue, tra l'altro, in Puglia. Se vuoi andarla a trovare per dargli qualche segnale, mi trovo a 200 nella pelosatezza. Ragazzi, domani darò l'indirizzo esatto del posto dove è Parenzo. Andategli a rompere i coglioni ogni giorno. Un gruppo di pugliesi dovrebbe andare ogni giorno a rompere i coglioni a Parenzo. Domani mi darà l'indirizzo esatto, Parenzo. No, per carità. Assolutamente sì. Beh, questo è d'obbligo, Voglio la mia privacy. Una grande idea ho avuto. Domani daremo l'indirizzo esatto. Unica settimana di ferie. Beh, mi dispiace, amico mio, domani darò l'indirizzo esatto. L'unica settimana che ho libera. Beh, nessuno te l'ha chiesto, nessuno te l'ha obbligato. Domani darò l'indirizzo esatto dove trovare Parenzo e indico già ai signori pugliesi, amanti o non amanti di Parenzo, di convogliare in massa, ovviamente se avete del tempo a disposizione, in qualsiasi ora del giorno per andare a rompere il cazzo a Parenzo in questa struttura turistica pugliese. E adesso ci sentiamo tra qualche istante. Attento al DDT, sai? La zanzara. Il dito del culo è legge. Se io fossi un deputato la farei legge nella Costituzione. Tu sei un grande. Cruciani docet. La signora Fatima, arruolata nello Stato Islamico, anzi giustamente il primo ministro inglese dice alla BBC di non chiamarlo Stato Islamico ma semplicemente terroristi, perché altrimenti gli si dà una parvenza di normalità. Signor Cameron, non scherzano gli inglesi con queste cose, no? Ha rimproverato, credo, la BBC o le televisioni inglesi e ha detto non dovete più chiamarlo Stato Islamico, perché sennò altrimenti sembra che è qualcosa di legittimo. No, sono semplicemente dei terroristi. E d'altra parte, sentendo le parole di questa italiana arruolata, pizzicata via Skype dal Corriere della Sera, beh, amici miei, sentite la signorina Fatima. Noi quando decapitiamo qualcuno, e io dico noi perché anch'io faccio parte di Daule l'Islamia, ok? Quando facciamo un'azione del genere, la facciamo agendo in base alla Sharia, ok? Questi che vengono decapitati sono ladri, sono munafiqun, sono ipocriti che fanno, agiscono come spia nello Stato Islamico e riportano le informazioni ai miscredenti per poi attaccarci. Sì, adesso voi non mi potete dire che tutto questo è normale. No, cioè, non mi potete dire che l'Islam declinato in questo modo è normale, ma è l'Islam però. Sono islamici, non so, ma è, no, come no? È l'Islam. No, è ti voglio dire una cosa, scusami, perché altrimenti. No, ma questa qua, ma tu hai sentito con quale semplicità viene pronunciata la parola decapitiamo? Questa, fammi dire, è un'italiana convertita al fanatismo folle che non è Islam. Convertita all'Islam. Se questa fosse vissuta negli anni 70 sarebbe stata una brigatista rossa, una Cesare Battisti, che provenivano dal comunismo, non è che provenivano dalla cultura comunista, dalla cultura nuovo. Cioè, si sarebbe fatta baciare dalla follia di qualche ma infatti pazzo. Ma infatti non c'entra l'Islam. Pazza italiana. No, ma senti ancora. La legge dell'Allah subhanahu wa ta'ala è la legge perfetta, è la legge giusta. Ad esempio, se un ladro ruba, lo Stato Islamico come agisce? Agisce secondo la Sharia e Allah nel Quran al-Karim dice, comanda questo, al ladro venga tagliata la mano. Per quale motivo? Perché questo sia un esempio per tutti, ok? Se viene tagliata la mano a un ladro, Marta, tu capisci bene che nessuno più si permetterebbe di venire in casa tua e rubare. Beh, devo dire però che la legge del taglione ogni tanto viene anche diffusa e propugnata da qualche politico italiano, la legge del taglione, su piani diversi. Ma dice... gli elettori della Lega, no, quelli che ascoltano Radio Padania. Scusami, quelli che ascoltano Radio Padania, quell'immondezzaio lì di Radio Padania. No, ma non è un immondezzaio, è una radio. Ah, dai, no, è su. Vero, chiedo scusa. Vabbè, allora... la parola immondezzaio. No, chiedo scusa perché non vorrei che l'immondizia si offendesse. Scusa, chiedo scusa all'immondizia. Radio Padania è un'immondizia. E scusa. No, chiedo scusa all'immondizia. E chiedi scusa all'immondizia, va bene, sarà contento i signori Varin, Pellegrini, che Morelli. Si sporca. Vabbè, allora... le cose che dice questa qui, questa pazza fanatica, non sono così diverse dalle nonnine che se crepa domani mattina. Non è così diverso delle nonnine? No, ma dalle nonnine, dalle nonnine che mentre cucinano la polenta taragna sparano dalle finestre del ricco Veneto. Ma nessuno spara dalle finestre, non dire cazzate, dai. O minacciano di. Ma no, dai, su, non sono diverse. Le nonnine che a te piacciono, come si chiama quella lì che era anche candidata? Come si chiama quella lì? Lores, dai, non è. Lores da Vicenza, Lores, ma non è uguale, dai, non è uguale. Nelle parole non è così diverso da questa parte. No, ma senti ancora questa Fatima, senti, senti. Perché nello stato del tarud, del kuffar, dei miscredenti che non seguono la legge di Allah subhanahu wa ta'ala, il ladro viene messo in prigione, poi esce, poi ancora ruba, poi magari decide di uccidere, no? E invece qui queste cose non succedono. Cioè, sta dicendo che nello Stato islamico, cioè scusate, dai terroristi islamici dove è andata questa signora, i ladri restano ladri, cioè vanno in galera, in realtà li tagliano le mani, forse li uccidono. E dunque non è possibile che escano come in Italia e magari uccidono o magari rubano ancora. Beh, stai parlando di un caso clinico, di una pazza scatenata, di una italiana. Un caso clinico, è lì, però ha diritto all'Islam, ma non è. Il sì, ma non è andata, non è andata dai buddisti, ma è un, non è andata dai cristiani, dai cristiani. Ma non è un caso, non è un caso. È una povera pazza italiana. Vabbè, dai. In un altro contesto sarebbe diventata una fanatica brigatista o chissà cos'altro. Fermi tutti, sono arrivate delle intercettazioni, sono arrivate delle telefonate, le solite telefonate di quelli che chiamano Fede. Oddio, ragazzi, non mandateci più queste telefonate, non ne possiamo più di ricevere queste telefonate. Non è nemmeno giusto, non è nemmeno giusto. Ascoltatori o comunque cittadini che hanno in mano il numero di Emilio Fede lo chiamano per rompere i coglioni. Fatela finita, fatela finita. Dio ti maledica. Direttore? Comunque tu sei. Direttore, ma perché alle olgettine tanto attenente? Bravo, io sono alle prese con dei figli di puttana. Cretino. Allora, sai perché ti rispondo? Perché tu farai parte della denuncia che ho già presentato, che devo aggiungere, tutti quelli che come te, cioè, in realtà la polizia postale e carabinieri ritengono che si tratti, e voi siate o degli impotenti, sicuro, o dei drogati, sicuro, o dei farabutti, sicuro, o dei malviventi. La mia denuncia è per minacce gravi e minacce di morte, associazione a delinquere. Vuoi continuare? Continuando a fanculo subito. Ma io volevo chiedere perché alle olgettine tanto te niente. Ma vai. Sei un impotente cretino. Tu nella vita non hai avuto sin din don, sei un culo, idiota, ma un idiota fa din don. Ma solo della gentaglia, guarda, io ho mai visto tanta brutta gente così insieme. Ma proprio dei porci, dei topi di foglia. Oddio mio. Allora, Massimo da Milano ha richiamato, vai Massimo. Buonasera, eccoci qua. Niente, dimmi. Con chiarezza, visto che sono due o tre giorni che andate a parlare di questo dito. Vabbè sì, abbiamo da quando sono uscite? Da lunedì, oggi che è martedì, sono due giorni, esatto, che parliamo di Iris Berardi e il dildo nel culo del Berlusca. Dai, adesso finirà prima o poi, ma è divertentissimo, molti si divertono, no, ci chiamano su questo. Dai. Non volevo che finisse, io ho telefonato per parlare di questo argomento una volta per tutte e dare un minimo di chiarezza. Allora, come all'interno di un menage di coppia esiste tutta una serie di situazioni che vengono condivise, sì, come io posso far raggiungere alla mia compagna un orgasmo di tipo punto G, esiste, sì, anche il punto L. È inutile che stiamo qua a girarci attorno, e per raggiungerlo bisogna entrare da quella parte lì, punto. Allora, se la mia compagna è mia complice, di conseguenza accetta insieme a me di condividere questa situazione. Vabbè, ma questo mi pare scontato, Massimo. Ci hai fatto aspettare tre quarti d'ora per dire una cosa così banale, che è una condivisione. Anche banale forse per qualcuno, ma non per la stragrande maggioranza delle persone che non sanno assolutamente di che cosa stiamo parlando. Ma comunque non si può obbligare Parenzo a fare una cosa che non vuole fare, eh? Cioè, ragazzi, in due no, dai, togliamene uno. Questo, fino a prova contraria, per ora questa cosa qui la gestisco io. Cioè il tuo culo lo gestisci tu, per ora sì, c'è scritto no way, come piace tanto. Vabbè, ma è una cosa così, è una sorta che di... No way lui lo applica all'Australia, io oppure se volete only one way, cioè soltanto una via, che è la via di uscita, ecco, io uso questo. Dopodiché non commento, ma neanche rimprovero, né biasimo, né mi permetto di dire che... Però sul tuo culo c'è scritto no way, no way. Fabrizio da Agrigento, vai. Bravo. Fabrizio. Bravo. Pronto? Vai, dimmi Fabrizio. Pronto, ecco. Ciao, io sono profondamente deluso da quello che ho sentito, di Berlusconi. Cioè? Sì. Perché Berlusconi è un mascolo. Vabbè, se e tu stai, ci... queste cose non le fanno. Tu ci stai pigliando per il culo, dai, con no, questa telefonata. Per il culo. Ma non è vero, dai, tu stai facendo un po' una parodia, dai. Stai facendo la parodia. La parodia del siciliano macio che dice Berlusconi queste cose non le dovrebbe fare. Ma ascolta, queste cose le devono fare i finocchi, gli amici, i parenti, i comunisti. Vabbè, ma che c'entra, dai, Fabrizio? Come dai, c'entra? Berlusconi ma sei finto. È un mascolo. Berlusconi sei finto. Sei finto come le monete, quelle dei ragazzini, quelle di cioccolata. Sei finto. Come finto? Tu lo sei finto? Ma che cosa stai dicendo? Sei finto. Francesco da Cagliari, sei finto. Francesco, Cagliari. Francesco, vai. Francesco non c'è, Rino da Cagliari, sempre da Cagliari. Rino, vai. Buonasera, Cruciani. Vai. Io volevo dire una cosa, anche se controcorrente un pochino, però posso dire questo, che a me sarebbe più piaciuto dare il culo, visto quello che ci è successo. Cioè, lo dico da etero convinto. No, non ho capito, vabbè. Scusami. No. Non ho capito. Per non ho capito. Nel vostro argomento. Io non l'ho mai preso lì, però visto quello che mi è successo avrei preferito prenderlo in quel posto. Visto quello che? Visto che a me è successa una tragedia familiare, ci hanno buttato via di casa. E quindi volevo dire questo. Mentre gli extracomunitari continuano ad arrivare a flotti e sono sistemati hotel a 3 stelle, 4 stelle, con piscina, wifi, eccetera. A noi ci hanno mandato via di casa. Senza aspettare manco un ricorso che c'era, ci hanno buttato per strada e non ci hanno offerto niente. Sì, però sono due cose diverse un po'. Tu dici, mentre a te ti hanno sfrattato, che cosa è successo, Rino? Non certo, ci hanno sfrattato a ti me e a mio fratello. Ti hanno sfrattato. Il trattamento diverso che fanno a noi e gli extracomunitari. Sì, gli extracomunitari arrivano e vengono gestiti. Tu hai una situazione, come dire, lavorativa evidentemente complicata. Adesso dove campi, scusa, dove vivi? Allora, noi siamo ospiti della gente del rione che ci hanno commosso perché ci hanno dato una camera, siamo in quattro, io, mia moglie e due figlie, in una camera, la gente del rione, cioè perché noi ci hanno buttato per strada, non ci hanno detto dove dovevamo andare, io ho solo questa casa, e quando gli abbiamo chiesto dove ci mandavano ci hanno offerto la Caritas. Mi possono mandare via di casa, ma un po' di dignità la teniamo, no? No, ma io questo non c'è dubbio, ma perché tu dici lo Stato non fa nulla per me e invece certo. Offre alloggio, eccetera, eccetera, agli extracomunitari, anche in Sardegna, peraltro, no? Certo, noi siamo trattati, guarda, fa schifo questo, io sono un cittadino, mi vergogno di essere cittadino italiano, ma sono costretto a stare qua. C'è oltretutto essendoci un ricorso al Consiglio di Stato il 14, ci hanno mandato via lo stesso con la forza, con un'irruzione. Va bene, Marino, ma perché te la pigli con gli extracomunitari? Scusa, no, non me la piglio con loro. Se noi vivessimo nell'uso, aiutavamo tutti. Ma prima aiuti chi sta in casa, no? Aiuti. Se a me mi aiutassero come loro, io non avrei detto niente. Ma siccome io mi vedo trattato come un pezzo di merda, scusate, buttato per strada senza mandarmi. Il nostro cane l'hanno messo sul canile. Va bene, Rino, ho capito. Ciao, Donato Varese. È lui. Dimmi. No, volevo l'argomento primo. Qual è l'argomento che voi stavate trattando? L'Islam, mi sembra. Sì, con quella Fatima, sì. Io voglio dire solo 4 parole. Vorrei l'editoriale di Donato, vai. No, ma nemmeno lì, voglio dire 4 parole. Secondo me noi siamo stati completamente anestetizzati. Tutti. Sì. L'Islam oramai è alle nostre è in casa nostra, ve lo dico, non voglio sembrare il solito croglione che parla dell'Islam, l'Islam è in casa nostra. A me Allora, noi andiamo a chiedere a tutti i musulmani che stanno in questa zona, andiamo a chiedere un pochettino cosa pensano dell'ISIS, andiamo a mettere le cimici in casa loro, altro che andare a mettere nelle palle di Berlusconi, andare a sentire cosa dicono di noi, i nostri nemici fedeli in casa nostra, ai quali abbiamo regalato quasi tutto, anche la nostra dignità. Noi dovremmo sapere un po' questi cosa pensano del paese che li accolti. Quanto amano il paese che l'ho accolto, in quale forma di bene loro stanno esplicando l'amore verso gli italiani. Io, dal mio punto di vista, a me sembrano degli ectoplasma che camminano, che non ti guardano nemmeno, abbassano la testa e non ci interessa un cazzo di noi. Noi, io ve lo dico, noi stiamo importando la morte in casa. E che dobbiamo fare? Qualsiasi islamico volesse parlare con me, me lo metti in radio e gli faccio io alcune domande. Noi in casa stiamo importando la morte per i nostri figli. Vorrei tanto parlare tante belle cose, ma credo che questo sia un problema che mezza Italia, su questo problema, si è completamente ingessata. Vai, vai a nanna, dai. Ecco, vedi, quest'altro farabutto che dice vai a nanna, vai lui, a nanna, deve tutelare, dai, lui deve tutelare la sua grande razza, perché gli ebrei credo che sia una grande razza. È tardi, guarda. La grande razza, no, gli ebrei è la grande razza. Io vado a cena, è tardi. Perché lui, se, se dicesse qualcosa contro l'Islam, è normale che è normale che poi ci sono delle, capito? Vai a dormire, che fai brutta figura. No, non vado a dormire, chiamatemi un islamico, me lo portate in radio e come gli devo fare tu? Alcune domande. Amico, fratello, attenzione! No, no, ma questa è una grande idea, una grande idea. Donato da Varese e le domande a un islamico, prossimamente alla Zanzara. Ci sentiamo domani 18:30, ciao. Eccoci ragazzi, in che compagnia, non voi dico, ma le puttanate che avete elencato. L'elenco sconfinato e impudico di puttanate reali e verbali che ammorbano il nostro tempo, mamma mia. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Prenda atto che ormai è tutto finito. Radio 24, la passione si sente.